Sono bruco, rinchiuso in un vaso ermetico. Poca aria intorno a me, non riesco a respirare. Poche foglie intorno a me, che riesco a mangiare. Tu che mi hai raccolto e rinchiuso qui dentro, ogni giorno mi osservi come mi comporto. Lo sai che voglio parlare e sai anche cosa fare, ma qui dentro mi rinchiudi senza motivo. Ti ritrovi. Ora nel mio bozzolo, nascosta, devo stare per potermi trasformare. Ora il momento è arrivato. Apri quel vaso e rimarrai incantato. Volo libera e felice, su di te mi posso appoggiare. Il tuo viso posso accarezzare e nell'orecchio ti posso